tempo solo, ma sempre più giù. Eccoci di nuovo a Dedicato, bentornati anche questo mercoledì con noi. Allora, anche questa settimana siamo di nuovo alle scuole Testoni Fioravanti dell'Istituto Comprensivo 5 di Bologna, nella zona bolognina, quartiere Navile, dove abbiamo fatto i nostri laboratori radio con i ragazzi ora e precedentemente con i bambini delle scuole Federzoni. Siamo alle Testoni Fioravanti perché l'associazione Totem Lab ha realizzato questo progetto, che è il progetto Bussole, azioni trasversali di capacitazione educativa tra scuola, territorio e comunità. Bussole è un progetto molto importante perché mette in evidenza il ruolo positivo giocato dall'educazione nella non violenza per contrastare le povertà educative. Bussole ha strutturato un'ampia rete di collaborazioni formali e informali. Ci sono diversi partner del progetto, che sono la Fondazione di Scuola di Pace di Montesole, l'Associazione Scintilla APS. E insomma, il beneficiario diretto di tutte queste azioni che il progetto Bussole mette in campo sono appunto le scuole DDC 5, quindi l'Istituto Comprensivo 5 di Bologna. Totem Lab è una PS che coinvolge diversi professionisti da diversi settori, quindi parliamo di cultura, ma parliamo anche di tanto altro che comunica alla non violenza. Quindi ringraziamo intanto Totem Lab con il progetto Bussole, perché è veramente importante questa azione nel territorio e stiamo toccando con mano i risultati che abbiamo con i ragazzi e i bambini della bolognina. Quindi insomma, come siamo abituati già nelle altre puntate, ascolteremo i loro contributi di oggi, che sono degli sketch. Abbiamo lavorato proprio sul botta e risposta, sul discorso comico della radio e di come si può far ridere un pubblico. Quindi chi più chi meno, travolti dalla timidezza, perché all'età di 12-13 anni la cosa più influente quando si ha un microfono o una telecamera davanti è la timidezza, quindi noi ci siamo fatti travolgere da tutto questo, chi più e chi meno, dicevamo, è riuscito a tirar fuori quel carattere comico che caratterizza i ragazzi della loro età. Ciao ragazze! Di cosa state parlando? In questa seconda C tutti fanno gesti, pensando che in radio vi vedano. Ah, di qualcosa? Ciao! Ciao! Hai appena detto no, ciao! Beh, questo è un ottimo discorso. Ragazzi, seconda C, di che cosa parlereste con le vostre compagne? Silenzio! Niente, non parlerebbero con le loro compagne in seconda C. Dai, prova a dirmi qualcosa tu! Dai. Allora, cioè, stavo guardando un cantante che non ci piaceva tanto e volevamo commentarlo per questo. Mi sembra un'ottima idea, perché dobbiamo fare uno sketch, quindi tentiamo di far ridere, parliamo di qualcosa che non ci piace. Per esempio? La sua musica. Ah, ma chi è questo? Rondo. Rondo, oh, beh, siamo perfetti a parlare di Rondo che non ci piace. Cosa hai da dire su Rondo che non ti piace? È molto volgare, molto. Molto volgare. Tu vuoi dire qualcosa su Rondo che non ci piace? Ride, quindi... No, non mi dare del lei, vabbè che insomma sono un po' boomer rispetto a te, però dammi del tu. E non ti preoccupare, ridere di Rondo in questo caso evidentemente va bene perché non ci piace, abbiamo detto, giusto? Sì. Ok. Come mai avete scelto lui tra quelli che non piacciono? C'è un motivo particolare? Quello che ho detto prima. La sua musica proprio. Sì, esatto. Ok, povero Rondo, l'abbiamo distrutto oggi. Non penso. Però l'abbiamo disintegrato così musicalmente. Spero di sì. Ok, grazie. Ciao, grazie. Ciao. No, le facce non le vedo in radio. Devi esprimere qualcosa con la voce, non con la faccia. Sta facendo gli occhi strabuzzati. Come? Stiamo ancora elaborando le idee. Ok, è mezz'ora che elaborate le idee. Che elaborazione devono avere queste idee? Sono un po' complesse perché pensavamo di fare uno sketch comico oppure parlare della vita dell'autore. Ok, quale autore? Pensavamo di fare il suo corso. Why is 6 afraid of 7? Because 7 ain't 9. And tennis next. è un gioco di parole, capito? Ecco. Perché sei a paura di 7? Perché 7 si è mangiato 9 e 10 è il prossimo. Perché sì, perché 8, la parola 8, cioè mangiare, suona un po' come 8, cioè 8, capito? Ecco. Parliamo di soldi. Di soldi? Questo è un argomento importante. Non proprio. Ecco, avevo avuto un'idea e quindi ho chiesto alla mia compagna: se trovi 100 euro di soldi finti per terra, cosa faresti? Li poterei, e tu cosa faresti? Io li darei a quelli senza tetto. Bello, così fai stare felice tutti. Ma tu non sembri felice. No, non sono felice. Perché? Perché ho trovato soldi finti, mi piacerebbe di più se fossero veri. Ma è tutto un'ipotesi, quindi non trovi comunque i soldi per terra? Invece sì, ho appena trovato 10 euro stamattina. Allora sei fortunata. Ma non avevo controllato se sono veri. Controlla adesso. Ah, sai, sono yen giapponesi, veri, ma non penso che sono felici. Vi siete inventati un piccolo sketch, una storia così, brave, brave. Ciao. Ciao. She said every time I close my eyes I feel like I could disappear. I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears. And I know it sounds dramatic, but that's just how it feels. She said I'm holding to the notion that I'll find something real. And I just wanna be wanted. Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I'd like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone that somebody needs. I just wanna be more than a drop in the sea. I just wanna be counting up my karma and I think it's time to cash it in. So tired of living in the shadow of the mountain of what might have been. And I know I sound dramatic, but that's just how it feels. I've been looking for somebody to tell me that I'm real. I just wanna be wanted. Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I'd like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone that somebody needs. I just wanna be more than a drop in the sea. I just wanna be wanted. One Republic Wanted, sempre i brani scelti dai nostri ragazzi delle Testoni Fioravanti dell'IC5 di Bologna, quindi dai, grande ragazzi, la musica salta fuori. Ci abbiamo messo un po' a trovare le canzoni da mandare nelle nostre puntate, ma alla fine ce l'abbiamo fatta in condivisione, perché la scelta non doveva essere individuale ma doveva essere condivisa da tutta la classe, quindi insomma un po' più complicata come cosa. Sono uscite proposte assurde e alla fine invece abbiamo trovato una direzione. Grande ragazzi! Allora andiamo avanti con i nostri sketch della seconda C, perché ora arrivano quelli dell'ultimo banco. Vai, dimmi, è il tuo momento! Ci siamo! Ragazzi, calma, è il loro momento! No, non è vero. Dai! Pausa un attimo subito. Ok, ridimmi che cos'è, qual è, cosa vuoi? Una? La materia preferita. Ah, ok, la materia preferita, va bene. Pausa un attimo subito. Andiamo di qua. Stavo pensando di recensire la canzone di Tony F di Sanremo. Ah, Tony F, beh, cioè è quello che ci è piaciuto meno. Lo staff di Dedicato ha avuto commenti non molto simpatici verso Tony F. Voi cosa ne pensate? È inutile che indichi, in radio non vedono se indichi, devi parlare. L'unica parte che ci è piaciuta è quella più famosa su TikTok e nei social media. C'è chi fa solitamente dei meme a riguardo. Ok. Avendo visto il suo nome a Sanremo, aspettavamo una canzone come le sue solite trap rap, e invece siamo rimasti sbalorditi per la canzone che ha fatto. Ok. Che ha portato a Sanremo. Ma ti è piaciuta a te? Cioè, non è male. Okay. È l'unica parte che è decente che ha fatto nella sua canzone. Che alcune canzoni sono orecchiabili. Orecchiabili, ci piace questo commento. Tony F è orecchiabile. Beh, niente di più di così, quindi beh, ci siete piaciuti, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Basta lì in fondo, quelli dell'ultimo banco. Siete sempre quelli dell'ultimo banco. Anch'io ero all'ultimo banco, infatti. Infatti, alla vostra età facevo uguale, però no. Stanno parlando i vostri compagni, forse, vediamo, riproviamoci. Di cosa parlate? Parlo io per voi. No, parla lei per voi di nuovo, hai qualcosa da dire per loro? Non so, no, in generale, di cosa volete parlare? Non lo sappiamo. Non abbiamo deciso. Qualcosa al volo, la vostra materia preferita? Arte. Storia. Storia, abbiamo già due punti da cui partire, arte e storia, tanta roba. Ok, ci potete ragionare? Parliamo di storia e di arte, o di storia dell'arte? Volevamo parlare della canzone che ha fatto Tommy Cash nell'Eurovision. Ok. Chiamato Espresso Macchiato. E niente, pensiamo che... cioè, sia molto coinvolgente, ma anche un po' una presa in giro contro gli italiani. Anche, mi è piaciuto anche molto il fatto di questa fantasia, cioè, sembra che sia un sogno, cioè, in realtà è solo una canzone. Tu hai qualcosa da dire? No, dormi lì. Tu hai sempre qualcosa da dire, adesso mi devi spiegare perché ce l'hai col mio microfono, che sembra un telefono, ma è un microfono. Non ce l'ho con il microfono, non ce l'ho con lui. Okay. Ah, ce l'hai col tuo compagno, hai ragione, ma non fosse l'unico, perché gli altri che dovevo inseguirli col microfono. Allora, prova a parlare nel microfono di qualcosa. Ciao. Di qualcosa? Miau. Di qualcosa? Boff. Di qualcosa? Di qualcosa? T'abusi. Di qualcosa? Ramadan Karim. E questi erano quelli dell'ultimo banco. Thank you. I ragazzi stavolta hanno scelto niente meno che i Police, grandi, veramente, sia i Police che i ragazzi che li hanno scelti. Complimenti, perché si vede una certa cultura musicale anche da parte delle famiglie sicuramente, ma i ragazzi sono grandi e hanno imparato ad ascoltare musica a modo loro, e se ascoltano i Police, chapeau, come dire, quindi complimenti. Ok, è la quarta volta che ci proviamo. Ci siete? Di cosa parliamo? Delle nostre materie preferite. Evviva! La mia è storia. Qual è la tua materia preferita? Quelli dell'ultimo banco, dai, che stiamo registrando per la quarta volta, ce la stiamo facendo. La mia materia preferita è storia. Qual è la tua materia preferita? La mia materia preferita è arte. Ma perché, ragazzi, queste due materie? Storia perché? A me piace la storia. Ok, quindi ti piace studiare quello che è successo nel nostro passato, magari per vedere cosa ci sarà nel futuro? Sì. Ok. E tu invece arte perché? A me perché mi piace il disegno. Ok, quindi ti piace anche proprio l'arte in pratica, no? Cioè fare disegni e lavorare con la tua manualità in quel campo lì. Ok, e quindi da grande cosa vorresti fare? Non lo so. Ancora non ci hai pensato? Se avessi visto la sua tigre. La sua tigre? Ci hanno dato da disegnare una tigre? La sua sembrava più un orso fatto orso male tigre, però. Un orso tigre, interessante questa cosa. Vorrei vedere il tuo disegno della tigre la prossima volta e lo commenteremo in radio a questo punto. Me l'ha strappato... Come te l'hanno strappato? Tu me l'hai detto. Ma come, no? Ok, hanno strappato il disegno della tigre. Finito il discorso. Fai un'altra tigre per noi e la commenteremo in radio. Grazie. Ciao. Ciao. Adios. Ok, ragazze, ci siete? Seconda C, un attimo di silenzio. Ascoltiamo le ragazze di cosa ci parlano. E del fatto che tutti i compagni di classe chiedono sempre a tutte le ore di andare in bagno. Ok, vabbè, adesso non vorrei difendere quelli dell'ultimo banco, che immagino che siano la maggioranza di quelli che chiedono di andare in bagno, però... Effettivamente ci vorrebbe una regola per questo, se no ogni 3 secondi qualcuno si alza e esce. È anche da dire che quando scappa, scappa. Come possiamo fare, secondo te, per risolvere questo problema? Come, scusa? Dove devi andare? Posso andare in bagno. Quindi tu come risolveresti il problema dei compagni che vanno sempre in bagno? Non lo so. Non lo sai? Ma tu sei una di quelle che va in bagno? No. Mai? No. Come, scusa? In ricreazione va in bagno, non è vero. Ok, ma io me lo auguro che andiate tutti in bagno almeno una volta a mattina, ecco. Volevo dire, è un argomento simpatico, ma secondo me possiamo andare oltre. Perché? Perché l'andare in bagno tante volte non è il fatto di andare in bagno, ma il fatto di uscire dalla classe, staccare con la testa da quello che sta succedendo. E c'è la campanella, sì, però noi non abbiamo finito. Puoi andare in bagno? Ok. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. Do I make you wanna stay? Hate sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Stop looking at me with those eyes, like I could disappear and you wouldn't care why. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Never Be Like You, sempre direttamente dalle scelte musicali dei nostri ragazzi. E allora andiamo avanti con gli ultimi due sketch, perché siamo addirittura d'arrivo in questa puntata, ormai alla fine. Silenzio, è sempre il solito silenzio della seconda C, che è fantastico. Riproviamo. Di cosa parliamo con voi? Si danno dei cucci l'uno con l'altro, fra un po' si menano, si stanno menando. Ragazze, di cosa parliamo? Della trap italiana. Della trap italiana! Abbiamo qualcosa da dire, abbiamo tanto da dire. Sì. Che i testi sono un po' troppo volgari e senza senso. Senza senso e volgari, sì, ci piace. C'è qualcuno in questa classe che invece la pensa diversamente? Sulla trap italiana, qui hanno detto volgare e senza senso. Noiosa, fantastico. Beh, insomma, la seconda C è una classe che non ascolta la trap, quindi. Che i nomi dei cantanti tradotti in italiano non hanno un senso compiuto. Cioè, tipo Simba la Ru in italiano sarebbe Simba la strada. No. Ah, ok. Non ha un senso compiuto. A te piace la trap? Più o meno. Non sono molto convinto sugli argomenti, soprattutto. Ok, questo ti fa onore. A voi piace la trap? Sì. Apprezzo. Perché? Che bella canzone. Bella canzone. Ti piace quello che dice o ti piace la musica? La musica. La musica, ok. Ragazze, qualcos'altro da dire? Non mi piace il ritmo. Ah, vedi, qua è il contrario del tuo compagno. A lui piace la musica, a te invece non piace proprio neanche il ritmo, la musica delle canzoni trap. Esatto. Che musica ascolti? Circa pop. Pop e hip hop, dicono di là. Perfetto. Ciao ragazzi, di cosa parliamo? Di alcune battute. Ok, vai. Alcune sono in italiano, mentre alcune sono in spagnolo. Perfetto. Una in italiano ci manda una foto del suo primo piano, io invece abito al terzo e ve la mando lo stesso. Ah, ok, ok, grazie. Qual è il limite per un dominio? Tenere una vita incredibile. Qual è la pianta più maloliente? El de los pies. ¿Qué cosa tiene en común un televisor y una hormiga? Las antenas. Per esempio, vorrei uno shampoo per capelli secchi, antiforfora o rinforzante. Per capelli sporchi, ne avete? Ok, ma spieghiamo anche perché abbiamo avuto delle battute in spagnolo. Spiegalo tu. Perché questo, cioè, io sono italiano ovviamente e mio compagno è spagnolo. Quindi per anche fare due generi di lingue abbiamo deciso di farle alcune in spagnolo e alcune in italiano. Ok, perché lui è appena arrivato in Italia, sì, giusto? Appena arrivato in Italia. E ancora non parla l'italiano bene corrente, insomma. Per fare unire tutti nel gruppo abbiamo deciso di fare tutte e due così, okay. Per parteciparlo, per non escluderlo. Fantastico, grande, bravi ragazzi. E anche questa puntata con i ragazzi delle Testoni Fioravanti è finita. Questa settimana abbiamo avuto la seconda C con i loro sketch, le loro battute, i loro momenti simpatici. Ci risentiamo la settimana prossima invece con la seconda B, sempre delle Testoni Fioravanti, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai salatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché.